Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci alle 8 e 18 minuti. Eccoci qua, 14 luglio. 14 luglio. Insomma, la presa della Bastiglia, no? No, questa... l'attentato Togliatti. Ah, ecco. No, no, dai, hai ragione ovviamente. La Bastiglia ovviamente è data storica fondamentale nella modernità, però in piccolo, che nel 1948 in questo giorno il giovane parlante abbia sparato quei quattro colpi a Togliatti, che per fortuna qualcuno nel PC dell'epoca abbia ragionato, tenendo fredde le teste di chi come Paietta voleva fare il colpo di Stato, vabbè, è una data in piccolo importante per l'Italia. Oggi Santi, San Camillo dell'Ellis. San Camillo dell'Ellis era un ex soldato di Ventura che a un certo punto si converte un po' come il fondatore della Compagnia di Gesù, no? Stessa storia, e quindi fonda questo ordine, i camigliani, che passano la vita a assistere gli infermi. Devo dire che è uno degli ordini che capisco di più e a cui sono più vicino. I santi strani, per così dire, oggi sono Lupercilla, Marchelmo, Ottaziano e Santa Toscana, che paradosso è una nobile, che di quelle fatte santa, perché naturalmente ha dato tutti i suoi soldi e patrimoni alla Chiesa, e che ancora oggi è venerata, è sepolta in una chiesetta a Verona, Santa Toscana veronese. E altri santi strani non ce ne sono? No, oggi ormai io restringo la lista perché mi dicono che poi invento. Invece no, guardate, nel martirologio e nei santuari trovate di tutto e di più, per così dire. Allora, cari ascoltatori, alle 8 e 20 minuti, intanto il numero per intervenire è il solito 800 24 00 24. Oggi, Oscar, parleremo di varie cose, approfondiremo. Beh, intanto la morte di Bernardo Provenzano, perché è un pezzo d'Italia che se ne va, con tutte le annesse questioni. Con tutti i segreti irrisolti, per così dire. Esatto, la famosa se c'è stata mai trattativa. Non lo sapremo mai. Saranno due fronti, anche due letture diverse della mafia, dei rapporti con la politica, che continueranno ad affrontarsi senza una risposta. Comunque parleremo poi anche dalle 9 alle 9.30 del famoso dipendente pubblico col sacco in testa a Bosco Trecase, quello di Napoli. Il timbratore mascherato, tra l'altro abbiamo una sorpresa. Abbiamo una sorpresa per i nostri ascoltatori. Sul timbratore mascherato, poi ve la diremo. Però inevitabilmente volevamo parlare ancora della tragedia Andria. Corato, sì. Ci sono tre indagati, hai visto? Sono i due capostazione, un altro dipendente di ferrotranviaria. Soprattutto i capostazioni. Io voglio spezzare una lancia, per carità, poi sarà la attenzione. Sarà la magistratura a dover chiarire. Però adesso buttare la croce, avrà anche sbagliato, e non lo so, il capostazione di Andria. Ma forse un sistema che dà troppa responsabilità alla scelta così umana di una persona è un sistema che non va bene, va perfezionato, ecco. Sì, infatti, ripeto, qui bisogna vedere il segnale, gli è arrivato, non gli è arrivato, era distratto, non lo sappiamo, vedremo. Detto questo, il problema non è che quel sistema, cioè a controllo ancora fonogrammi e di telefonate, sia illegale, è il contrario, per così dire. Il problema è che è ancora legale quel sistema, questo è il punto e italiano. E non solo, il Messaggero racconta che c'è un decreto, esatto, che vorrebbe uniformare, ovviamente alzando al rialzo, mettendo al rialzo gli standard di sicurezza, tutti i sistemi tecnologici, esatto. Ma è bloccato nella conferenza Stato-Regioni, quindi il decreto c'è. Il decreto c'è e bisogna dire le cose fino in fondo. Il decreto c'è perché le regioni, da un certo punto di vista, hanno anche ragione. Spieghiamo a chi ascolta. Oggi, mentre tutta la rete ferroviaria di RFI, cioè delle Ferrovie dello Stato, è sotto la sorveglianza, gli standard di sicurezza dell'Autorità Nazionale di Sicurezza Ferroviaria, i concessionari regionali no, sono sottoposti alla sorveglianza di un ufficio emanazionale del Ministero. Questo disegno di legge, fermo alla conferenza Stato-Regioni, le regioni dicono perché non ci piace, perché invece di uniformare gli standard di sicurezza sotto l'autorità, e le regioni sarebbero favorevoli, viene usato come un grimaldello per far entrare Ferrovie dello Stato nella gestione diretta di queste concessioni. E le regioni dicono, già in questi anni è Roma che decide tutto sui fondi, se gli diamo anche tutto a ferrovie è finita e la nostra competenza sul trasporto locale è la questione legata alla sicurezza, cioè è una questione diversa. Stai attento che però il governo la utilizza per ferrovie, perché il governo vuole fare in ferrovie il vero moltiplicatore in cui decide lui qualunque investimento. Del resto, non l'ho scritta io né tu, questo titolo quinto della Costituzione che dà le competenze e però i soldi solo a Roma e le competenze alle regioni, come si vede crea anche guai di questo tipo qua, ci va la sicurezza di mezzo. Io dico però che se c'è un decreto che vuole uniformare i sistemi di sicurezza al rialzo è viva, però se poi è bloccato per le solite pastoie burocratiche e per i litigi politici, come racconta oggi il Messaggero, poi i risultati ai noi a volte possono si pagano veramente. Comunque il ministro Del Rio era in Parlamento, ieri alla Camera, a spiegare questo. La sicurezza non è garantita dalla presenza dei due binari, è la capacità che è garantita dalla presenza dei due binari. Anche binari unici sono molto sicuri quando sono applicate tecnologie avanzate. Il sistema di segnalamento con consenso telefonico, pur essendo sicuro, è certamente un sistema tra i meno evoluti rispetto alle tecnologie disponibili per la regolazione della circolazione ferroviaria. Ecco, quindi ha detto le cose che diciamo ieri, non è vero che il binario doppio sia sinonimo forza di No, continuerà a essere in paesi avanzati un pezzo di fondamentale del sistema. Poi la tecnologia e questo sistema fonogrammi è legale, come dici tu, ma è un po' obsoleto. È molto obsoleto. Il paradosso poi è che l'Italia è un'eccellenza mondiale invece proprio per lo studio, la realizzazione e la messa a sistema della sensoristica di sicurezza sulle linee ferroviarie, cioè aziende come Ansaldo STS, la GCF e così via, vincono le gare in tutto il mondo per farlo. Quindi altro paradosso italiano, insegniamo a tutto il mondo e realizziamo a tutto il mondo ciò che in pezzi d'Italia non facciamo, pur avendo la capacità di farlo. C'è una polemica politica perché c'è un onorevole, si chiama D'Ambrosio, del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro è credo di quelle parti, forse di Ande addirittura, che dice: io da 3 anni che chiedo con interpellanze, interrogazioni parlamentari, inutilmente, invano. E quindi ieri ha accusato il ministro di essere responsabile di tutto ciò. No, ministro, lei è il primo responsabile politicamente di questa tragedia. Sa perché? Le dico una data. State in silenzio, per cortesia. Come vi abbiamo ascoltati noi. No. Allora, scusate, colleghi, è la Presidenza che invita al silenzio. Grazie, Presidente. Sì, no, per posso cui continuare? Lei proceda con Grazie, il Presidente. Suo intervento. Vabbè, insomma, questa è la cosa. Poi gli chiede anche a Del Rio se abbia mai preso un regionale. Io dico, ma lei ha mai preso un treno regionale, ministro? Ma l'ha mai preso? Perché io l'ho preso da studente universitario, l'ho preso da lavoratore e sono stato quasi felice che questa tragedia sia accaduta oggi e non in inverno, altrimenti sarebbe stata una strage ulteriore. Insomma, adesso magari in maniera impropria si è espresso, sono quasi felice che sia successo adesso e non in inverno, però il senso era chiaro, dice: in inverno sarebbe stata una tragedia anche peggiore. Comunque la domanda è retorica, come sappiamo li prende bene i treni, tanto che l'alta velocità ha fatto una stazione a Reggio Emilia grazie al fatto che c'è il sindaco Del Rio, ex sindaco di Reggio Emilia. Non è che li prende, li fa arrivare, per così dire, come ai vecchi tempi si diceva di qualcun altro. No, tra l'altro dai, in tempo peraltro Oscar tempi, no, io voglio fare i vecchi tempi, vabbè, dai, i vecchi tempi non ho detto quali, no, mica ho detto bravo. Quali magari quelli di Togliatti, quelli di De Gasperi. Allora, no, io devo fare una polemica magari minore sull'aspetto giornalistico. Non so se hai notato anche tu, Oscar, ma quando poi si mandano sempre 20 inviate, bisogna scrivere 20 pagine. Oggi per esempio sul Corriere c'è l'intervista a Scamarcio. Sì. Emma Marrone, ci manca veramente l'intervista a Guccini perché ha scritto La locomotiva e poi abbiamo chiuso il cerchio. Ma credo che posso dirti? Sono ragionalmente certo della seguente che qualcuno gliel'ha chiesta e Guccini ha detto: Guccini avrà detto no, ma abbiate pietà. Secondo me, se scommettiamo io e te tutti dalla stessa parte contro qualcun altro, vinciamo. A qualcuno sono sicuro, qualche caporedattore è venuto a brillante idea. Sentiamo Guccini. Sicuro. Francesco Guccini ha scritto La locomotiva, questo ferroviere che contro il sistema lanciava la locomotiva. Cioè, vi rendete conto, insomma, però non so che ci vuoi fare. Sono le amare leggi di questa specie di intrattenimento che è diventato il giornalismo. Le pagine da riempire e le vecchie piante organiche e le persone in eccesso da far lavorare. questo sì. Altrimenti così sembriamo dei crumiri, i nostri colleghi diranno che siamo al servizio di quale sordido interesse. Diciamo che forse parliamo perché abbiamo visto dopo un po' di anni come funziona, ecco, tutto qui. Allora, va bene, questo è il tema che affrontiamo. Se volete chiamarci 800 24 00 24, come detto parleremo della morte di Provenzano, anche di politica. Oscar, invece, si sta parlando poco, c'è qualcosa che ti ha stuzzicato? Mi ha molto colpito il meraviglioso apporto della Coldiretti raccontato dal Fatto Quotidiano, che sicuramente avrei visto, Alessandro, perché sì. Il Fatto Quotidiano, pagina 2 e 3, dice: la verità vera è che le firme, le 500.000 firme che servivano per raggiungere, sono quelle necessarie, no? Per dare la formale rappresentanza del comitato per il sì del PD e quindi accedere anche ai soldi pubblici, le hanno ottenute solo grazie con a lo più sprint di 100.000 sprint finale. Sprint è quello che ti dà l'ultimo metro, lì gli hanno dato bel più dell'ultimo metro, quindi hanno dato 100.000 firme e più. La Coldiretti, vecchio strumento elettorale di consenso della DC, è divenuta adesso il vero pilastro, perché il PD in difficoltà, è spaccato, è diviso, mentre invece il comitato per il no non ha raccolto le firme. Però devo e dire, dicono traditi dalla CGIL. Però tra l'altro, in tutto questo io devo dire c'è una buona notizia e una cattiva notizia. Il fatto che non abbia raccolto le firme vuol dire che non hanno il diritto garantito di spazi televisivi. La buona notizia è che non hanno i rimborsi, mentre invece purtroppo chi ha raccolto i 500.000 firme avrà diritto a 500.000 euro di rimborsi. Sì, infatti. Quindi c'è una buona notizia. Non... era meglio se ce n'erano due, però vabbè. Sì. Cioè che non raccoglievano entrambi le... tanto il referendum si farà comunque, l'abbiamo detto mille volte, tanto è risparmiare, però appunto, appunto. Comunque la meravigliosa Mariana Boschi era sul palco a ringraziare, cioè, questa bellissima immagine la Coldiretti, quindi... per le firme, sì, le firme ti o... ricordi la vecchia pubblicità del, cioè, un film mitico degli anni 60 fatto con 4 episodi, uno dei quali è rappresentato dal subbuglio che nella mente di un maschio un po' depresso provoca l'enorme manifesto di Anita Ekberg, sì. Bevete più latte, non me lo ricordo, sono più i tuoi bevete anni, le fotografie, no, è un classico del cinema italiano, sì, però hai ragione. Ecco, le immagini di Mariana Boschi sul palco da Coldiretti assomiglia a quella Anita Ekberg, bevete più latte. Va bene, Claudio ci chiama da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno Mila, buongiorno Giannino. Ma ho voluto chiamare solo perché mi trovo pienamente d'accordo, o quantomeno penso pienamente d'accordo con lei, sul fatto che non è assolutamente possibile addebitare, mi riferisco al disastro di Andrea ovviamente, sì, addebitare a una persona che possa essere un capostazione, un manovratore, un treno, una responsabilità così immane come quella di avere sulla coscienza 20-30 morti e tutti quei feriti, perché magari, essendo essere umano e di conseguenza essendo normale che questo possa accadere, si è distratto, si è dimenticato, aveva la testa occupata da mille cose. No, ma poi il problema è, pensate se fosse solo il controllo umano a cosa ci sottoporremmo, quello ma che è stressato, difatti, quello che è arrabbiato, quello che non vuole, esatto, uno che si guadagna 1.500-1.800 euro al mese, quando mai si assumerebbe una responsabilità del genere? Che potrebbe rovinare la sua vita e quella di tutta la sua famiglia per sempre, per accettare un tipo di responsabilità così consistente, cioè quella di dover essere assolutamente sempre concentratissimo per tutta la vita durante il suo lavoro, è impossibile. Sì. Io spero proprio che non venga condannata nessuna. Vabbè, di quelle, siamo già alle condanne, diciamo, siamo all'inizio dell'indagine. Ma in Italia sappiamo come noi abbiamo bisogno del capo espiatore. Insomma, altrimenti la belva diciamo della pubblica opinione, se non è nutrita a sangue, non è completa. Va bene, insomma, il Molossen l'abbiamo già trovato, secondo alcuni. La ringrazio, grazie Claudio da Pordenone. Non lo so se abbiamo trovato il capro espiatorio. Certo, anche se c'è da dire che se c'è una responsabilità va anche accertata, anche se avesse fatto un tragico errore umano, però c'è troppo così. Comunque ripeto, siccome a indagare è una procura che non ci ha risparmiato negli anni artifici e fuochi, penso che sia difficile immaginare che risparmieranno ipotesi, ecco. Infatti la procura di Trani ha detto siamo solo all'inizio e non vorremmo esatto che poi con la smania di andare sempre più oltre pensando che ci siano dei livelli sempre superiori si arrivi a convocare, non lo so, anche noi, perché abbiamo detto, abbiamo fatto una trasmissione. Infatti, io tengo la bocca abbastanza chiusa, no, perché non si sa mai con Trani. Ci chiama Paolo da Imperia, buongiorno. Buongiorno. Se mi fate parlare con calma vi dico io com'è la situazione. Io avrò fatto almeno 200.000 km in treno, soprattutto nel meridione. Sì. Quindi bisogna finirla con questi piagnistei. È tutto che finisce sempre a tarluce vino. Quindi le comunicazioni sono quasi inesistenti, abolite dal nord al sud della Sicilia. Quando si arriva su, a Villa San Giovanni il treno diventa una cosa incandescente, gabinetti chiusi, è rimasto un solo traghetto. Ma no, andiamo più sul pratico. Sì. Adesso vedo che accusano lì come al solito il capostazione, il macchinista e questo e quell'altro. È come dire che a un pilota danno un aereo scassato, l'aereo cade e se la prendono col pilota. Ma quello che voglio dire io è questo, che si devono vergognare se adesso Mattarella, Renzi e tutti i politici vanno lì ai funerali. Ora dico questo. Però Paolo, perché abbiamo detto varie volte che i treni non erano treni scassati, questi di questa linea. Cioè, non è, no, ma, no, non parlo, cioè, di treni scassati. C'erano ieri gli ascoltatori. Di collegamenti. Mi faccia finire quest'ultimo appello che faccio. In onore dei loro morti, lì pugliesi, se vogliono onorarli, se queste persone vanno lì a Piagnisteo nel funerale, parlo di Presidente della Repubblica, ministri, che li prendano a pomodori e pesci in faccia in onore dei loro morti. Grazie e buongiorno. Va bene, Paolo da Imperia, grazie per il suo parere, insomma. È così, molto, molto sentito, diciamo così. Ci chiama Leonardo da Latina, buongiorno Leonardo. Buongiorno, mi sentite bene? Sì, benissimo. Allora, io voglio fare un intervento di tipo diverso. Purtroppo in Italia ogni volta, quando parliamo di infrastrutture, parliamo che servono altri ponti, altre strade, i sottopassi, eccetera. In realtà, come è successo in questo caso, la infrastruttura che manca è molto meno costosa, ma molto più a valore aggiunto. E sono infrastrutture moderne, sono apparecchiature elettroniche, informatiche, che informazioni che vanno sulle fibre. Bastava, a prescindere dal binario unico, un'infrastruttura elettronica molto più economica che raddoppiare quella linea, per mettere totalmente in sicurezza la tecnologia, insomma, quello che è questo. Invece noi parliamo sempre che dobbiamo raddoppiare, ci stanno migliaia di chilometri di ferrovia binario unico in su Europa. Questo sono però totalmente sicuri, Leonardo, l'abbiamo in realtà sì, è vero, c'è questa richiesta, ma Oscar, lo stiamo dicendo da due giorni, lo si ripete che il binario unico non è sinonimo di insicurezza. No, non è sinonimo di insicurezza. Poi ripeto, il Fondo Nazionale, perdonate, perché sennò ognuno, i soldi non si stampano, partiamo da questo presupposto, cioè se il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, quello che sta in legge finanziaria, che dà la somma che poi si divide tra le regioni, è passato dal 2009 al 2010 da 6 miliardi e 3 a un terzo in meno, 4 miliardi e 2, e per le note ragioni, allora la coperta è corta, capite? Quindi, i soldi per mettere in sicurezza tutto in contemporanea sulle migliaia di non chilometri ci sono. Di non per il ci momento sono. Non ci sono. Allora la questione è come bisogna fare le priorità. Le priorità le decide, ha molto più potere la regione che lo Stato centrale su questo, sui tratti in concessione, e lì effettivamente, piuttosto che mettere in cantiere, come avete visto con molto ritardo, l'utilizzo dei fondi europei per i doppi binari e così via, una delle priorità dovrebbe essere, cari concessionari, voi dovete elevare i livelli di sicurezza. Su questo siamo abbastanza d'accordo. Che siano poi ipereconomici, non è vero neanche questo. Però prima di andare in pubblicità, io vorrei leggere questo messaggio. Delizioso Giannino. Quanto mi rallegra sentire qualcuno che ha il coraggio di parlare di santi, la letteratura di noi poveri che non avevamo nessun libro. Ma che ricchezza di storie umane. Lei rinnova la grande tradizione del grande Piero Bargellini. Beh, questo è veramente Giuseppina Ferrari da Verona ringrazia per la presenza. Di Santa Toscana abbiamo colpito. Letteratura dei poveri. Questo sarebbe un grandissimo onore. Bargellini, scherziamo. Certo, non sono Domine, non sum dignus, e quindi questo è il mio ringraziamento all'ascoltatrice. Comunque, continuiamo a parlare di questo tema, cioè dei treni, se volete chiamarci all'800 24 00 24, parleremo però tra poco con l'avvocato di Bernardo Provenzano e il sindaco di Corleone invece della morte del boss. A cui non seguirà cerimonia funebre. Esatto, il questore ha vietato i funerali, questo mi ha un po' colpito, i funerali religiosi. Io ieri infatti ho detto, la prima cosa di istinto, ho detto sarà interessantissimo ascoltare la predica, l'omelia ai funerali. Non ci saranno. Muta. Che miseria. Omelia. Anche muto. Funerali del mafioso. Muto. Anche l'omelia. Muta. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. 24 mattino. Attenti a noi due. Vedi Oscar, poi c'è un altro tema, effettivamente oggi Roberto Saviano, l'abbandono del Sud, il disastro del Sud, e sicuramente su tante tematiche ha ragione. Ci scrive un'ascoltatrice da Ruvo, dice: non mi riferisco proprio alla tragedia di Puglia, sono cittadina di Ruvo, prendo spesso quel treno e non è vero che i lavori non siano mai stati fatti, non è vero che gli stanziamenti europei non siano mai stati spesi. Si parla di Mezzogiorno come anticamera dell'inferno, invece vuole esprimere la mia dignità di cittadina del Sud Italia. E quello è un esempio di dignità, non no, di abbandono, come, di sfacelo, come abbiamo di distruzione. Detto ieri nell'esame comparato della qualità, cioè dell'efficienza e della vetustà del materiale rotabile che circola sulle linee di trasporto pubblico locale nel sud, la Puglia non è affatto una regione che sta in fondo. Quelli che stanno peggio di tutti, ripeto, l'area urbana intorno a Roma, intorno a Napoli, ecco. La Calabria e la Sardegna, lì siamo, e la Sicilia anche per certi la Sicilia versi. La linea è quella che è quella del 1800. Altrove il materiale rotabile è proprio 50 anni, cioè girano ancora le littorine, per far capire. Comunque, caro Oscar, dobbiamo parlare della scomparsa, la morte di Bernardo Provenzano, i funerali vietati dal questore di Palermo, funerali religiosi. Intanto il sindaco di Corleone, Lea Savona. Sindaco, buongiorno e grazie di essere con noi, perché l'abbiamo distolta da un impegno personale anche, no? Credo che sia fare il cammino di Santiago. Di Santiago, esatto. Lei ha detto che è il 25 aprile di Corleone, cioè la liberazione, questa scomparsa. Sì, perché i cittadini onesti di Corleone si scrollano dalle spalle un pezzo di storia criminale che è stata rappresentata dal boss Bernardo Provenzano. E così i cittadini, come dire, con questa morte stanno raggiungendo anche, come dire, una forma di giustizia, nel senso che chiunque si intesta delle battaglie criminali prima o poi morirà, come e quindi tutti, sarà ricordato semplicemente per fatti e disvalori negativi. Quello che ha contrassegnato anche la vita non soltanto delle vittime di mafia, ma anche della vita dei cittadini onesti di Corleone, perché attraverso la storia criminale noi abbiamo la nomea in tutto il mondo di essere capitale mondiale della mafia. È giusto, secondo lei, la decisione del questore di vietare è giusta la decisione del questore, secondo lei, di vietare i funerali? Giustissima, anch'io avrei fatto lo stesso. È giustissimo perché non è degno di avere dei funerali aperti al pubblico. Queste storie criminali dovrebbero essere concluse, secondo me, all'interno dello stesso carcere e nei luoghi dove appunto sono stati. Cioè non dovrebbe essere sepolto neanche a Corleone? Neanche a Corleone. Cioè, lei no, perché appunto la questione è questa, lei non lo vorrebbe sepolto neanche nel cimitero di Corleone? Esatto, sì. E dove andrebbe e quindi, sepolto? Quindi per noi, come dire, è un motivo, come dire, di gioia il fatto che sia stato arrestato e poi abbia fatto anche questa fine per vena. Chiaramente non sappiamo anche quello che aspetta da sul divino. Quello lo sa solo Dio. Lei giustamente sta facendo il cammino di Santiago. Pronto? Sta facendo il cammino di Santiago, quindi immagino che creda molto. Sono stata a Fatima e adesso fra qualche giorno inizio il cammino di Santiago. Sì, sono molto vicino alla fede, solo la fede mi ha aiutata a resistere anche a tutti gli attacchi politici locali, dove hanno strumentalizzato ogni mio modo di agire politicamente, ma siccome io ripeto che credo molto nella giustizia divina, prima o poi la verità verranno a galla anche le verità dello Stato mafia, perché comunque tra lo Stato corrotto e la mafia c'erano sicuramente degli accordi. Quindi c'era secondo lei questa trattativa e Bernardo Provenzano... Sì. Io sono d'accordo con l'operato che ha fatto il PM Di Matteo, sono d'accordo con quelli dello Stato sano che hanno voglia di giustizia per il loro lavoro che hanno svolto e che è stato reso vano da tutti coloro che invece nello Stato non fanno un lavoro secondo le regole dello Stato, ma fanno delle carriere in sinergia con la mafia. Sì, sindaco, va bene, Oscar, intanto dobbiamo presentare, perché la sta ascoltando, ecco, anche l'avvocato di Bernardo Provenzano, cioè l'avvocato Rosalba Di Gregorio, che ringraziamo di essere qui con noi. Avvocato, grazie a voi, buongiorno. Ha sentito ovviamente le parole molto, molto dure del sindaco di Corleone, che dice è giusto non concedere i funerali pubblici, è giusto anche, non sarebbe giusto neanche seppellirlo a Corleone. Che possiamo dire di Provenzano, lei che l'ha in qualche modo seguito fino alla fine? Io l'ho seguito da un punto di vista giudiziario legale, fino, certo, alla fine, sì, certo. Il contatto con la persona si è esaurito nel momento in cui è finita la persona, cioè nel momento in cui ha cominciato a non capire più, a non rapportarsi più, e cioè 4 anni fa, cioè a dicembre del 2012. 4 anni? A seguito, sì, certo, dicembre 2012, stiamo parlando di quasi 4 anni fa. Cioè nel momento in cui, a seguito della caduta di quell'ematoma che avete visto ripreso in quelle immagini televisive che io ho dato dal CD che avevo preso e che ho consegnato allora al servizio pubblico, si è visto quell'ematoma grosso sulla fronte, la notte stessa è andato in coma e dopodiché è stato operato, eccetera. Da quel momento tutte le diagnosi, tutte le perizie, ovviamente non di parte, intendo fatte dalla magistratura, hanno stabilito che il soggetto non era più in condizione di rapportarsi con l'esterno, non parlava più e quindi era, diciamo, un vegetale. Come, per quello che riguarda, come giudica il fatto la decisione del questore, le parole del questore? Intanto chiariamolo, può avere vietato e ha vietato sicuramente i funerali in forma pubblica, non quelli religiosi, perché lì il problema è un altro, e cioè nel momento in cui la Chiesa non si trova di fronte a un soggetto che ha ricevuto il sacramento della confessione e quindi poi l'estrema unzione, non può ammetterlo in chiesa, un soggetto condannato in questi termini. Quindi il questore non può incidere sulla cerimonia religiosa, dove i divieti sono di altro genere. Quindi è la chiesa che certo, ha detto, è chiaro, la celebrazione è certo, perché il questore non ha ovviamente competenza sulla chiesa. Il questore può vietare, a quanto pare vietato, i funerali in forma pubblica, quindi diciamo il corteo, ecco, per capirci. E quindi la tumulazione può avvenire solo a opera di, e con la presenza solo dei parenti stretti, senza il corteo proprio, ma d'altra parte queste erano le intenzioni dei parenti, quindi sotto questo profilo nessun problema. Nessun problema. Oscar, qua. Mentre il problema che resta aperto, forse, e resterà aperto a lungo, forse per sempre, avvocato, è quello che alla fine ha trattato anche in un pezzo del suo intervento il sindaco Lea Savona. Certa la sindaca, dico, che ci sia stata questa trattativa? In realtà, vabbè, quello è un problema, mi consenta il sindaco, no, quello è un problema che stabilirà una sentenza. Cioè che io stavo proprio chiedendo all'avvocato, perché le sentenze fino a questo momento di alcuni pezzi delle istruttorie varie e diverse, in realtà la sentenza aprono su trattativa, che poi non si chiama trattativa, comunque comunemente detto trattativa, lì c'è in corso di svolgimento un processo, quindi da cui noi, come diciamo difensori di Provenzano, siamo usciti per la semplice ragione che è nota, che dopo quella caduta a cui alludevo io, cioè dopo il coma del dicembre 2012, la posizione di Provenzano è stata stralciata perché incapace di stare nel processo, quindi questo è un fatto, però il processo continua ovviamente per gli altri e continuerà fino al momento della sentenza, quindi se c'è stata violenza e minaccia a corpo dello Stato, perché questo è il reato, sì, questo lo stabiliranno i giudici nelle sentenze fino al momento della sentenza definitiva. Non siamo, noi possiamo avere la nostra opinione, che può divergere la mia da quella del sindaco di Corleone, e questo insomma è rilevante, perché lì nel momento in cui esiste un momento giudiziario lasciamo almeno ai giudici la possibilità di esprimersi. Quella che molti sposano, diciamo, è la tesi della Procura della Repubblica, sì, ma fino a prova contraria è una tesi della Procura della Repubblica, cioè la tesi d'accusa non è già sentenza. No, è chiaro, questo sì. Oscar, era questo il dubbio che... Resterà secondo me un vero problema aperto. Io non sono convinto nemmeno che la sentenza riuscirà a fugare o ad affermare per tutti una delle due tesi che si confrontano, perché lo scontro è radicale intorno. È uno scontro, sì, certo, proprio interpretativo di come lo Stato e le istituzioni, non pezzi deviati, ma pezzi fondamentalmente dotati di un carisma, sì, hanno affrontato gli anni decisivi della mafia. C'è un altro tema. Oggi Marzia Sabella, PM che faceva parte del pool che fece arrestare attraverso gli uomini di Forza dell'Ordine Provenzano, dice in due interviste che si userà ora questa morte per attaccare il carcere 41 bis, avvocato, che lei ha anche criticato, cioè più volte a dire, lei e i familiari, Provenzano negli ultimi anni non era tenuto a stare per le condizioni al 41 bis. Verrà utilizzata per attaccare questa forma di carcerazione. Ma guardi, come verrà utilizzata dagli altri non lo so, cosa penso io sull'argomento è chiarissimo, cioè il 41 bis, non perché lo dico io ma perché c'è scritto così, perché è previsto così, è uno strumento che lo Stato italiano adopera, diciamo, per evitare contatti e quindi la possibilità di veicolazione di messaggi, di ordini e comunque di contatti tra il detenuto e l'associazione di riferimento. Quindi nel momento in cui, e questo non lo dico io, lo dicono le perizie, lo dice la pronuncia di Morosini, del giudice Morosini, che l'ha stralciato da trattativa, cioè lo dicono 100 tipi di provvedimenti, nel momento in cui Provenzano non era più in grado non di rapportarsi con l'associazione ma neanche di parlare, cioè di, non era più in grado di avere un pensiero, uscire, cioè, doveva uscire, non doveva uscire, non doveva stare, no, no, bisognava dargli, perché così dice la legge, non perché così ci piaceva, bisognava dargli un circuito carcerario diverso. Noi non abbiamo mai fatto distanza di scarcerazione, anche per un motivo diverso, cioè di sospensione all'esecuzione pena, anche per un motivo diverso, perché le condizioni dal momento dopo l'intervento, e questo lo certificano sempre i medici, sono tali per cui se l'avessero tirato fuori dal carcere, cioè dall'ospedale, scusi, avrebbe avuto una possibilità di vita di 48 ore. Quindi nessuno voleva che andasse a casa e morisse, cioè per mano mia non volevo che morisse direttamente. Però, avvocato, ci può capire, cioè, tecnicamente sui funerali si sa qualcosa? Quando saranno? In che forma? No, perché saranno? Si deve effettuare l'autopsia. In che forma saranno? In che forma e dove? Necessariamente privata, anzi, i familiari auspicano che avvenga in forma privata. Intendo dire, c'è una pressione mediatica in questo momento anche su di me per capire le date, le date, eccetera. C'è l'autopsia, quindi non si può sapere. È chiaro, no, ma dico perché? Perché evidentemente c'è interesse da parte di informazione, cosa, di essere presenti, di, ecco, se devono essere in forma privata, siano in forma privata. E verrà, questo chi lo garantisce? Questo almeno... evidentemente lo dovrebbe garantire qualcun altro, cioè non i familiari che chiedono che siano in forma privata. Vogliono almeno questo, ci può dire se vogliono che venga tumulato a Corleone? Ah, penso di sì. Pensa di sì. Sindaco, questo sindaco Lea Savona, questo insomma, questo succederà, nel senso, lei potrà impedire che venga tumulato a Corleone? No, io non lo posso impedire, io parlavo di una forma, come dire, di giustizia per i cittadini di Corleone, che questa figura non ha portato lustro ai cittadini onesti di Corleone, e che sarebbe stato anche opportuno, come dire, visto che è morto, devo fare l'autopsia, rimanere sui luoghi per evitare, diciamo, anche strumentalizzazioni da parte sia della stampa sia da quei politici che con sindaco con da qualche parte va seppellito, sindaco. Certamente, non c'è dubbio, questo e credo che abbia anche il diritto, come dire, a una celebrazione eucaristica, ma voglio dire in forma privata. E quindi sono d'accordo con l'operato del questore, non c'è dubbio, non in forma pubblica. Va bene, noi vi ringraziamo, Oscar. Grazie a voi. Grazie al sindaco Lea Savona, grazie all'avvocato Rosalba Di Gregorio. Ci saranno ancora polemiche, secondo me, su questa storia dei funerali, perché non si è capito bene. Sì, poi soprattutto le polemiche resteranno negli anni, perché c'è un non detto grande come un grattacielo dietro questo. Diverse ricostruzioni opposte delle procure sullo Stato mafia è un pezzo di storia nera della Repubblica, appunto. Soprattutto ricordiamo la latitanza di oltre 40 anni. Capito. Poi sì, l'abbiamo preso nel 2006, ma sì, 40 anni e oltre. Quando si è iniziato è a fare sul serio, lo si è preso. Ed è stato preso a un chilometro da Corleone. Secondo quello che ci dicono pezzi di Stato, quando alcuni dello Stato hanno iniziato a fare sul serio. Adesso, naturalmente, siccome si presta qualunque parola uno usi a essere interpretata e attaccata durissimamente dalla controparte, c'è chi dice che è tutta un'invenzione della procura, no? Bisogna starci con i piedi di piombo, andarci, quindi usare parole limitate, però non mi ha mai convinto la ricostruzione di uno Stato coeso a lottare contro la mafia. Allora, noi non ci fermiamo, perché parleremo di Bosco Trecase. Anche gli ascoltatori Riccardo da Ferrara, chiediamo un attimo di pazienza. Bosco Trecase, i nuovi furbetti del cartellino, beccati anche con i sacchetti in testa. I timbratori mascherati. E tra poco, dopo il giornale radio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. se non puoi batterli, mangiateli. È quello che disse Mike Tyson ad Holyfield quando gli morse l'orecchio prima di finire al tappeto. Ed è quello che sta facendo la Fiat con gli hacker americani. Dopo aver visto una violazione del proprio sistema informatico e soprattutto del sistema tecnologico delle proprie Jeep, la Fiat ha cambiato strada. Invece di investire miliardi per cercare di proteggere l'automobile, ha deciso di mettere sostanzialmente un premio a qualunque hacker che sarà in grado di violare le automobili del Fiat Chrysler e di poi spiegare alla Fiat come ripararle. L'iniziativa, che non ha precedenti, per ora vale soltanto in America, e il premio sono $150, il minimo, fino a $1,500 per il suggerimento più importante. Nell'era del web non ci sono più regole ed anche un hacker può diventare più utile di uno scienziato. I risultati li sapremo presto, ma intanto una considerazione la possiamo fare. Quella della Fiat è sicuramente una mossa importante sul piano del marketing. Aprire l'azienda, i suoi valori e i suoi prodotti a categorie che probabilmente ne sono state sempre fuori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, alle 9:04 minuti siamo qui. Eccoci tornati in questo 14 luglio. Intanto c'è un ascoltatore, Marco da Reggio Calabria, che ringraziamo per la pazienza. Marco, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Dica. Volevo fare solamente un piccolo intervento in merito a quando si parla sulla morte di Provenzano. Sicuramente sì, è un criminale, perché la sua vita parla della sua carriera. Ma la cosa... Pronto? Sì, dica. La cosa che tutti quanti hanno omesso in questo periodo di portare alla luce è che c'è stato un momento in cui Provenzano si parlava di un'eventuale collaborazione con la giustizia, e il fatto che sia stato tenuto al 41 bis fino alla morte, probabilmente qualche pezzo delle istituzioni che temeva le sue dichiarazioni, si è voluto assicurare che uscisse solo morto dal carcere. Questa è una mia impressione, perché a volte sono stati messi fuori gente dal 41 bis con uno stato di salute migliore di Provenzano. Nel caso di Provenzano però si è dovuto arrivare fino alla morte, tutti si sono opposti tranne qualcuno, mi sembra che all'epoca alla Direzione Nazionale Antimafia furono prese per buone le dichiarazioni di un tizio che voleva appunto fare incontrare Provenzano con alcuni magistrati, poi all'allora procuratore Grasso disse che era... Sicuramente si è voluto tenerlo lì fino alla morte, questo dice Marco da Reggio Calabria. Però la giustificazione è sempre stata che il ruolo attribuito nella gerarchia di Cosa Nostra continuava a essere così apicale che bisognava impedirgli i rapporti. Non è che è stato tenuto in carcere. Dopodiché, su Matteo Messina Denaro, che anche lui ormai ha una latitanza pluridecennale e non si riesce ad acchiappare, le tesi sono varie e diverse. C'è chi sostiene che ci sia stata un'evoluzione radicale della struttura di Cosa Nostra e che lui non sia più l'equivalente del capo dei capi dei tempi di Rina, di cui Provenzano era luogotenente, e c'è chi invece sostiene di no, non è molto chiaro. Allora, noi qui dobbiamo cambiare tema e parlare, insomma, a volte per i temi si introducono anche con le immagini. In radio, caro Oscar, le immagini non sono facilmente divulgabili, però... questo a te ti colpisce, ti lede, perché sei un bell'uomo. A me mi agevola, perché come è noto, sono brutto come la muerte. Non pensavo a quello, ma l'immagine da Bosco Trecase, in provincia di Napoli, di quel dipendente insacchettato. Come lo dobbiamo chiamare? Incaprettato? Insacchettato. Il timbratore mascherato. Il timbratore mascherato. A Bosco Trecase. Però vedi che Filippo, l'Eterno. Ma pensa Plauto. Ma cioè, niente, c'è poco da fare. Gli italiani in questo danno lezioni quotidiane al mondo. Ma secondo me non è molto contento, però anche noi abbiamo delle domande da fargli un po' puntute. Il sindaco di Bosco Trecase, Pietro Carotenuto, buongiorno sindaco, grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Beh, insomma, questa immagine non è che mette Bosco Trecase al centro dell'emblema dell'efficienza e trasparenza, e trasparenza, no, in Italia. L'ha vista anche lei questa immagine? Sì, l'ho vista anche io. Quanti sono i dipendenti comunali? vigili compresi arriviamo quasi a 60. Quasi a 60. È vero che sono metà invischiati in sta storia? Eh beh, di questi 60, 30 sono indagati, di questi 30, 23 soggetti a misura cautelare. Accidenti. E il comune, lei dice, a questo punto rischia di chiudere. Questo è un dato di fatto. Eh sì, il primo giorno, il giorno delle operazioni, insomma, abbiamo avuto degli uffici completamente chiusi, dall'anagrafe allo stato civile ad altri uffici, perché erano coinvolti tutte le persone, diciamo, operanti in quegli uffici. Tenga conto che è un piccolo comune, quindi in ogni ufficio c'è una, massimo due unità. E quindi quel giorno proprio, martedì, siamo stati completamente chiusi. Ieri già abbiamo attuato una sorta di ridistribuzione del personale che opera ancora nel comune attraverso una ristrutturazione, se sì, così lo vogliamo sì, chiamare, aziendale, e quindi abbiamo fatto in modo che questi uffici aprisse, di diretto rapporto con il pubblico per erogare dei servizi importanti e necessari fossero aperti. Senta, insomma, lei sindaco ovviamente non si è mai accorto di nulla, no? No, tenga conto che io sono sindaco da un mese, dal 5 giugno, sì, ovviamente per la prima volta, non sono sindaco uscente, e dall'8 sono qui in comune, dall'8 giugno, quindi è poco più di un mese ovviamente abbiamo dovuto affrontare. Capito, ma un giro negli uffici, cioè, come vedi, la gente che lavorava, la gente che era lì, la gente alle 8:30 del mattino, tutti che si presentavano, no? Ah, questa era un'indagine che è partita a gennaio ed è stata anche, tra l'altro, velocissima, perché tenga conto che da gennaio, febbraio, marzo al massimo si sono concluse le indagini e in breve tempo il GIP poi ha attuato pure i provvedimenti di misura cautelare, sì, perché sono bastati quei due mesi con quella telecamera, insomma, a filmare tutto, il che diciamo lascia come dire, pensare al fatto che comunque erano purtroppo delle immagini evidenti che poi le abbiamo viste, che quindi non c'era bisogno di andare avanti. Tipo quella, lei, perché tra l'altro lei lo sa chi è quello lì, il mascherato. No, tra l'altro ieri in sede di interrogatorio di garanzia l'ha messo anche. E come l'ha messo? C'è l'immagine, c'è l'immagine. No, devo dire la verità, io all'inizio, in prima battuta, non riuscivo ad individuare chi era il... c'aveva il sacchetto in testa, come faceva individuare? No, dall'altra parte del corpo, almeno dall'abbigliamento, dalla panza, non riuscivo a capire. Ma poi... ha capito chi è? Cioè, l'ha capito? Sì, l'avevo capito anche prima dell'interrogatorio, perché altri consiglieri di maggioranza mi avevano fatto notare, insomma, degli indizi, e l'avevo capito. Poi ho letto ieri sera un articolo che girava via Facebook, dove pare che nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso cosa? Cioè, c'è l'immagine, sì, ha ammesso che ha messo un sacchetto in testa. Sono io, nell'articolo in questione c'è scritto, sì, sono io, ho fatto quello sbagliato. Ho letto testualmente. Ma, caro Oscar. Tra l'altro qui abbiamo un professore, un docente di diritto del lavoro alla Cattolica di Milano, il professor Vincenzo Ferrante, grazie professore per essere con noi. Grazie a lei. Professor Ferrante, perché spesso si dice c'è il decreto Madia, la sentiamo un po' male, non so se il collegamento possiamo migliorare. Comunque dice c'è il decreto Madia, ora si possono cacciare in 48 ore questi fannulloni, è così? Ma in realtà era già così prima per le leggi Brunetta ed era ancora prima già nel 2001. Il decreto Madia modifica un punto, cioè impone una sospensione cautelare nelle 48 ore. Però questa sospensione cautelare legata ad un termine così ristretto rischia in certi casi di fare più danni che bene. Pensi a qualcuno che venga, come dire, scoperto il venerdì pomeriggio, le 48 ore vengono a scadere la domenica, e quindi credo che non sia una norma necessariamente che favorisce l'espulsione dei malintenzionati, diciamo così. Bene. Poi lei ieri, ho letto un'intervista ad Avvenire, ha detto bisogna essere precisi in maniera certosina nell'accertare l'eventuale reato, non si può essere vaghi, insomma è tutta una serie di paletti burocratici, perché sennò c'è sempre un giudice dietro l'angolo che può... E questo è vero, questa è una esperienza in realtà che ci viene sia dallo Statuto dei Lavoratori, ma prima ancora dalla legislazione statunitense. Cioè il licenziamento deve essere preceduto a garanzia del lavoratore da una contestazione, perché anche in casi come questo di Bosco Trecase bisogna capire quanti sono effettivamente i dipendenti coinvolti e il grado di coinvolgimento per ciascuno di essi, perché pare difficile ipotizzare che i giudici poi non facciano applicazione di un principio di proporzionalità. Sì. Quindi comunque, professore, senta qua, perché noi... è che noi abbiamo tentato di approfondire, perché è evidente che anche nella pubblica amministrazione hanno letto il decreto e scavando di conoscenza in parentela, per amicizia interposta, il terzo e il quarto grado, i gradi di separazione, abbiamo una testimonianza di uno dei dipendenti. La testimonianza. Ecco, quello lì, il mascherato. Del mascherato. Eccolo qua, ascoltiamolo un secondo. Ma signore mio, ma che state dicendo? Ma state pazziando? Ma vi pare a voi che siamo nati ieri? So anni e anni di esperienza nel settore pubblico a spiegare la cosa. Ma di quale truffa allo Stato si parla? Ma per piacere. Forse che quando chiedete a San Gennaro di fare i miracoli, gli addimandate da che ora a che ora? Su, a noi, in comune, a Bosco Trecase, è come se ci chiedessero di fare un miracolo, ogni giorno. E mo me fate tutta sta camurria per un cartone in coppa a capa. Ma veniamo ai fatti. Primo, signore mio, ma l'avete visto o no che essere indagati so per primi il comandante dei vigili urbani e o capo da ragioneria, nonché vice segretario comunale? Io non so se o pesce feta, ma qui è la procura a dirvi che se feta da capa. Dopo anni e anni che vedi che chi sta in alto e ha già a controllà, si fa beatamente gli affari suoi, e beh, allora non è truffa, ma è regola. E chi sta a basso, o si fa puisso gli affari suoi, oppure è fesso. E acca, nisciun è fesso, dottor, lasciate che vo' dica. Secondo... Dottor Milan, ma voi vo' siete letto o decreto Madia? Noi e sì, ovviamente. E scusate, ma chi lo decreto va bene per voi e giornalisti? Per fare i titoli in coppa e giornali e parlarne in radio e TV? Ma quando mai ho stato in grado di licenziarmi entro 30 giorni? Sì, per primi io gli metto e subito la difficoltà di capire chi davvero ci sta sotto cartone. Ma quale incidente probatorio riescono a fa'? Per sospendermi in 48 ore. Mando a manneno la dovuta notifica per ogni passo del procedimento, quando la mia residenza non è o domicilio. E ogni mancata notificazione sarà motivo di nullità davanti al giudice, a cui ci rivolgeremo come vindice nostro. Dottor Milan, rassegnatevi. A pubblica amministrazione agunisciamo meglio noi che voi a giornalisti. A voi e i politici vi possono vendere che licenziano la gente in troppo poche ore. Ma so fissarie, da tretta a me, dottor. Vabbè. Allora, che dice il professore? Mi pare che siano un po' d'accordo con le sue critiche o sbaglio? È una ricostruzione che probabilmente anticipa possibili difese. Qui la giurisprudenza ultimamente ha un po' cambiato orientamento e sta cominciando a rivedere un poco posizioni che in passato erano fortemente garantiste. Certamente avremmo bisogno di leggi più chiare, di leggi che non necessariamente prevedano termini così brevi. 48 ore è effettivamente un termine troppo breve per prendere qualunque decisione, anche perché si tratta di licenziare una persona. E avremmo anche bisogno, lo si diceva, di qualcuno che aiuti le realtà più piccole. Il comune di Bosco Trecase ha 60 dipendenti e quindi è medio grande, ma ci sono comuni anche con 15, con 20 dipendenti. Sì. Ed è chiaro che in realtà organizzative di questo tipo è difficile possedere le competenze necessarie a gestire tutto, i rifiuti, le tasse. Comunque, professore, io merito a segnalarle, io ho messo in piedi un cantiere di autosegnalazione dopo il decreto Madia. Questo è il vostro caso, è già il quarto evento a rilevanza nazionale dove le procure intervengono. Fino a questo momento, vedremo a Bosco Trecase che è il quarto, ma nei tre precedenti, e sto parlando di 18 giorni nel frattempo, non in un solo caso c'è stato licenziamento previsto. Non in un solo caso, e in un solo caso, e per una sola persona, rispetto a oltre 70 persone indagate nei tre casi precedenti. La sospensione è stata in 48 ore, cioè la prima impressione è che siamo a un tasso di applicazione che conferma i dubbi rispetto come, agli come annunci, diceva la ricostruzione, no, ma giustamente il professore ha detto la ricostruzione, perché diciamo l'Oscar magari fossimo riusciti a beccarlo sindaco il mascherato, ma parla così più o meno il mascherato, no però era vero che il comandante di Luigi D'Urbani, il ragioniere generale, quello no, però vero. Sindaco, c'è un'altra questione, ci scrivono alcuni ascoltatori, guardi, ne cito due. Il Bosco Trecase ha 10.500 abitanti, è corretto più o meno? Sì, più o meno. 60 dipendenti. Il mio comune in provincia di Bergamo, ci scrive un ascoltatore, ha 5.500 abitanti, cioè la metà, 9 dipendenti. E un altro 9 dipendenti. Un altro ascoltatore ci scrive invece, nel mio comune, ecco me lo sono perso, nel mio comune comunque le cifre erano più o meno quelle, cioè, 9.800 abitanti nel mio comune, 29 dipendenti, non 60, caro sindaco. Non dipende allora, innanzitutto da i 60 comprendono 17 unità del comando dei vigili, comandante e amministrativi compresi. Che peraltro quindi, diciamo, è i dipendenti del comune sono più o meno 45, insomma, siamo lì 40-45. Non lo so come fanno questi comuni che lei ha citato, mi pare obiettivamente impossibile andare avanti, perché io già prima di questo provvedimento avevo una pianta organica ridottissima, cioè al netto di quello che si può pensare, avevo uffici dove c'era uno al massimo due unità, e questo significa che in caso di malattie, di ferie, insomma di qualsiasi problematica, resta una sola unità, al punto tale che io già stavo mettendo mano in questo mese di consigliatura ad una riorganizzazione della pianta organica, solo che questa poi è stata una mazzata ancora maggiore. Però, sai che molti sindaco, ascoltatori dicono lavorano, esatto, ci scrivono lavorano, ecco come fanno. Non entriamo nella polemica nord-sud e dell'assunzione pubblica al sud come strumento, diciamo, di integrazione. Io voglio anche dire un'altra cosa, certo, per risolvere questo problema ho fatto tornare gente dalle ferie che era in spiaggia sotto all'ombrellone e già sono qui in comune a lavorare. Tra l'altro anche alcune posizioni apicali, alcuni responsabili di settore che da martedì pomeriggio, giorno delle operazioni, sono già venute in comune. I dipendenti rimasti, il comune tenga conto che alle 14 termina l'orario di lavoro, i dipendenti sia martedì che mercoledì sono stati con me in comune anche di pomeriggio per sbrigare, diciamo, la parte burocratica che di mattina. Vabbè, diciamo, la situazione era eccezionalmente di... Comunque, sindaco, lei è fresco di elezione, ma resta il fatto, e capita in tutti i posti dove c'è una percentuale così elevata di coinvolti nell'assenteismo pubblico, che, appunto, come diceva il nostro finto testimone, è dall'alto che viene il cattivo esempio. Cioè, quando i vertici amministrativi, che sanno benissimo che avvengono queste cose, non possono pretendere di raccontarci che non lo sa, lo sanno, praticano per primi a proprio vantaggio queste regole, è ovvio che si diffonde un atteggiamento emulativo che è basato sulla faccenda, e che sono fesso io che non lo faccio. Allora, questo è un problema fondamentale nella pubblica amministrazione, perché è dai dirigenti e dalla loro accuratezza, responsabilità, che parte un'efficienza poi al cittadino, altrimenti non si riesce a ottenere niente. Questa è l'impressione che abbiamo come giornalisti, vedendo tutte queste storie che hanno tratti di analogia nelle differenze poi delle percentuali, dei posti. Però c'è sempre un capo apicale che pure lui è coinvolto, e quindi stando zitto lui, ecco perché tutti contano sul il fatto pesce che puzza si può... dalla testa, così. Però professor Ferrante, davvero, cioè, noi dobbiamo rassegnarci al fatto di dire è sempre difficile comunque licenziare una persona del genere? Cioè, per me uno che si presenta con il, adesso non voglio personalizzare, ma le immagini danno un senso della cosa, se uno si presenta con il cappuccio, così non mi faccio vedere, timbro per 10 persone, cioè una persona così va licenziata, mi dispiace, ma non si doveva comportare così, non si può davvero? Certamente va licenziata, ma il procedimento disciplinare di cui parlavamo prima è un procedimento disciplinare che ha delle fasi predeterminate. Ripeto, la giurisprudenza ha attenuato il rigore degli anni passati, però qui avremmo bisogno di una legislazione più chiara, che facesse tesoro di 40 anni di giurisprudenza. Cioè, noi continuiamo ad avere delle norme molto sintetiche che si preoccupano anche poco di ricadute pratiche. Per esempio il sindaco lamentava il fatto che adesso la macchina burocratica è priva di un terzo circa dei suoi dipendenti. Noi non abbiamo una norma che ci dica chiaramente se possiamo assumere nel frattempo cioè che il processo venga celebrato, sì, se possiamo ricorrere alla somministrazione, se lavoratori eventualmente assunti per supplire a queste carenze poi possano essere licenziati una volta che qualcuno di questi 23 magari... No, perché sennò c'è il rischio che diventano perché sennò diventano da 60 alla fine 80. Allora è un po' paradossale che con 45 anni la legge è del 1970, quindi siamo ormai a 46 anni di applicazione, ancora questi aspetti che potevano apparire, come dire, secondari 46 anni fa, non vengano normati. Ma non vengono normati perché nel frattempo non è mai avvenuto che ci siano state deprivazioni di massa degli organici, lo sa meglio di me, perché ha ricordato per primo che la giurisprudenza reintegrava. Quelle poche volte che l'amministrazione pubblica osava licenziare prima in attesa dei lunghi tempi della giustizia, il magistrato del lavoro diceva no, dovete aspettare la sentenza finale fino all'ultimo grado, e quindi questo è il motivo per il quale per tanti anni l'assentismo pubblico era un tema da film e di sorrisi. Basta appunto dire mandiamo la notifica alla residenza, ma la residenza non è il domicilio, tutti difetti che possono essere impugnati a dire e poi fare opposizione, poi c'è il giudice, non lo so, vediamo. Cesare da Pisa ci chiama, che ci vuole dire? Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione prima di tutto. Io vorrei fare una domanda semplice e anche abbastanza stupida, però potrebbe aprire un altro vaso di Pandora. Se grazie a questa nuova riforma che c'è, queste persone, questi famosi furbetti del cartellino, possono essere licenziati in tronco in 48 ore, queste persone poi prendono la disoccupazione? Cioè, questa è la domanda che vi faccio. Queste persone gli spetta anche la disoccupazione? No, professor Ferrante, vuole rispondere lei a Cesare? No, la disoccupazione non viene prevista, la NASPI non viene prevista per i dipendenti pubblici, perché non c'è un versamento contributivo in termini di NASPI. Quindi da questo punto di vista no. Certamente però nel settore privato spetta il trattamento di disoccupazione la NASPI, ma questo è abbastanza normale, perché punire questi soggetti anche negando loro la disoccupazione è frutto dei versamenti che hanno fatto, dei versamenti contributivi che hanno pagato. Però noi stiamo parlando di assenteismo pubblico qua, perché ricordiamo che i tassi di assenteismo nelle imprese private sono nella media, dai dati elevati, tre volte inferiori rispetto alle medie. Qui stiamo parlando poi di picchi altissimi, quindi lasciamo per... Vabbè, sindaco, noi vorremmo davvero, ma ci dica qualcosa, no, senza dire l'identità di questo dipendente mascherato, per concludere. Cioè, secondo lei è il genio napoletano all'ennesima potenza? È noto come quel capo della compagnia di scherzi dei dipendenti, oppure no? Cioè. No. Cosa pensi? No. Assolutamente. Tra l'altro è un dipendente che rientra, diciamo, tra quelli delle pulizie, insomma, non ha funzioni della ditta delle pulizie, per capirci, insomma. Dice non ha funzione, non è all'anagrafe, non è agli uffici tributari, non è, però insomma, sta di fatto che dice, pensava di farla, di essere più furbo degli altri, qua li faccio fessi, avrà pensato, li faccio fessi. E va bene, noi vi ringraziamo, caro sindaco di Bosco Tre Case, in bocca al lupo, avrà alla prima esperienza Pietro Carotenuto da che fare. No, io adesso naturalmente esprimo un'opinione. Io non ho sentito la sensazione del sindaco, io di adesso per primo metterò mano alle procedure che in 48 no, ore. No, esatto. Vedi? Cioè, perché poi io temo che la legge Madia finirà per essere una grida manzoniana. Insomma, il professor Vincenzo Ferrante un po' ci ha spiegato questi rischi. Allora, qua con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione e Paolo Corleoni in regia, anche Filippo Aureggi un po' ci ha assistito e ci ha sopportato dalle 9:30. Molto sopportato. Ragazzi, mettetelo questo segnale video, vi assicuro, voi non avete idea quanto è bello, si è tagliato i capelli oggi, è bellissimo. Sono andato da Olivier, parrucchiere di François Hollande, 590.000 euro ma l'anno. Ma perché non facciamo domanda come suoi assistenti, esatto, accidentaccio? Esatto. Altro che Radio 24. Va bene. Ciao, a domani. Ciao.